Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare. Io sono andato al mare, mi sono fatto il bagno ed era trasparente e tanto brillante. Mi sono poi abbronzato, la sabbia era rovente, ma questo non fa niente perché c'è il mare. Sono un po' buttato nel mare, t'ho nuotato, nuota, nuota, nuota e volo lontano. Mare, mare, mare, mare, mare. Al mare, mare, mare, mare, mare, mare. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare. Un sacco di ombrelloni e tanta gente. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, com'è bello sono qui al mare. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare.